Un interrogativo. Cosa già? Luca, che dice? A te, ho detto 1757, l'MC60, va bene, rende. In base a cambiare la connessione, come non va bene? Come vuol dire va bene? Se vuoi un consiglio per il 757, puoi metterle anche l'SM20. Con l'SM20 spinge più dell'MC60. Con Cimigliano andiamo andato. No, stava più parlando, gli ho rivolto la parola e non mi ha risposto che si è spostato. Chi è che c'ha il 757? No, già, sono qua, non c'è il là, che sto facendo cosa, mi sta solo l'ascolto, capito? Non ti ho risposto perché mi è impegnato. Ce n'è uno su eBay in vendita, 400 euro. Ma di che cosa, il 757? Ma te l'ho detto, per l'importanza è troppo alto già, è troppo alto. Se fosse stato compra subito, magari ti ho messo al collo 350 il prezzo suo, allo stesso valore del 140, capito? Dobbiamo un'altra per partenza, un 757 a 400 euro. Secondo la paghi fasi, se tu lo segui quello, non partecipa nessuno, non è possibile, cioè un prezzo di partenza a 400 euro, un 757, e allora vogliono un 440 e anche vai di moneta, ti guarda in tuo prezzo di partenza. È troppo. 250 magari, Claudio, è proprio immacolato, senza un graffio. Sì, ma infatti ho detto il prezzo di partenza di un'asta per 757 è dalle 250 euro in su. Ma io ho questo prezzo di partenza 400 euro. E il prezzo di partenza di quella va di quel prezzo. Poi se arriva a 300, 350, ben venga, ma non lo puoi far partire da 400. È troppo esagerato. Cosa hai detto, Sandro? Che è troppo pure. 350. Il valore del 757 massimo in ordine 300. Vedi già che non ho sbagliato. Io mi ricordavo così. È una radio che tanti anni che non la seguo. Però è una bellissima radio, ma è troppo alta come prezzo. E te ne è peccato che un 440, il prezzo suo di base di vendita è 400 euro. Qualcuno lo vende anche 450, ma si può anche prendere 50 euro in più. Ma hai un 440 con molto più completo. 757 è anche un 140, cioè è come il 140, le stesse funzioni. Anzi, ti dirò che il 140 è tre conversioni, il 757 è due conversioni perché c'è il doppio VFO delle memorie al 140, capito? Quindi è ancora superiore al 140, perciò però sono una radio che vanno bene, 300 euro lo comprerei al volo, ma non 400. E che poi Claudio anche senza garanzia, No, non mi interessa, Sandri, lo sai. Noi stiamo facendo quell'operazione, se ci riesco si mette in setto quello là, ma non lo prenderei io a quel prezzo, un 757, ma non manco per le palle. No, assolutamente. Assolutamente no, massimo 300, ma con la garanzia, senza garanzia meglio lasciar perdere perché non sai quello che trovi. Vabbè signori Billy, dai, io vado a mangiare un boccone, se ci siete ci aggiorniamo dopo Gianluca, tanto mi pare sia travaglio tu, quindi se sia Ranghiero sappi che non ho problemi, ti puoi mettere in qualsiasi punto, qua arrivi sempre bene. Ciao Gianni, ciao Sandro, chiunque fosse in agguato, vai anche Massimiliano, che stava facendo cosa? La gente dice un che Ferrari, vai, non voglio che ti raccagli gamboni, che ti mette in disordio. Ottima radio, bravo Massimiliano, pensavo che non l'accendevi, invece già l'hai accesa. Ciao a tutti, qua rettengo per me, avanti Gianlu. Dai, ti ascolto forte e chiaro, dai, sono dentro la città proprio, dai. Ok, dai, buona cena, salutoni a tutti, dai, dopo c'è il confronto, ogni tanto che c'ho la pausa, se ci sente faccio una breccata, se mi ascoltate sempre, ok, ciao a tutti. Ciao Gianlu, buon tabacco, ciao anche a Claudio, buona carica. Riprendi chi c'è rimasto, avanti. Ega, ciao Claudio, e anche io mi sono ricordato, ho finito la giornata. Ok, Gianluca non so dove si trovi, lo sento passo passo, Claudio. città, è in città, sa. È dentro la città d'Alghero. Ah, d'Alghero, e allora buonanotte. Se Alghero, buonanotte allora. Perché? No, ehi, cazzo. Boh, non lo so, dipende da quale punto si possa trovare, perché non lo sento. Ma niente. Strano, perché io ho confinato con questo, ci parlavo con il dottore, non arrivavo fortissimo, ma Santiago 8 ci arrivavo. Ehi, vabbè, ma dipende dal punto già. Dipende dal punto che si trova. Vabbè, già. Buonasera, avanti. E te sei combinato di due. E me, modulando giù, con Sandrino, avanti di nuovo. Sì, Giovanni sono, come mi senti? Buonasera Giovanni, avevo capito di tu, dai, io ti sento bene Giovanni. Sì, ok, sto provando qui un aggeggio, CCCP, compreso, no, sono andato per salutarti già, non mi trattengo che ho fame, sono anche stanco. Ti ringrazio del pensiero, fa piacere che ogni tanto ci sia qualcuno venga per salutare. E niente, se ti vuoi trattenere siamo qua, oppure dopo che hai mangiato magari una bella doccia là, che poi ti risvegli. Ok, vediamo un po', guarda un po' già da così, guarda, allora, da questo passaggio, mi dirai che differenza c'è. Non devo ripetere i passaggi perché devo mettere gli occhiali, se no ti do controlli sballati, avanti. Allora, facciamo così là, vediamo tanto, ecco, da questo passaggio, così. A questo passaggio, cosa vedi? Vedo che da dove passano le dita. Pulita, pulita. Ok, perfetto. Vabbè dai, questo si chiama Thunder. Cavolina, ma adesso con quanti volte sta facendo? 100. Come? Con 100 sta facendo adesso. Sì, un centinaio, no, in AM non è fatto per la M già, non è fatto per la M. Questo in AM quando te ne dà 100 va benissimo, capito? E via, no, e manda lo stesso, ne faccio dare i pugni. No, ma l'ho limitato io, no. Oh, parlo di un pedaggio di minimo 40 watt, con 40 te ne dà 500 sicuri. Così, con un apparecchio così, guarda, adesso sono 3 watt e me ne stanno 30 già, puliti puliti però, salgo un po' più su, sei una chimantina, là. Andai, mica c'è Sandro il produttore, se lo saluto. Sandro. Cappa, guardi, Sandro. Fatto, dai. Va bene, dai, io ne approfitto a salutarvi che sono già quasi arrivato qui a destinazione. Ciao Gianni Doppio Rumo. Cappata, passa, va per la radio, lasciati quello di appaggio perché va benissimo. Ciao, buona carica quando la fai, rilascio tutto quanto a Gianni, ditti, che così almeno ti saluti. Ok, ciao Sandro, se mi stai ascoltando, ci ascoltiamo nel prossimo con tutto. Ciao anche a Doppio Rum, a riascoltarci, ciao ciao. Un attimo, Gianni Ittiri, mi daresti un rapporto? No, c'è un sacco di QRM già, non riesco a sentirlo bene. Per un segnale, un rapporto di segnale. Allora, dovrebbe essere 5, la radio è anche buona, però c'è un QRM qui che arriva a 7-8, molte volte ti copre. Ehi capo, vabbè, c'è un po' di QRM. Va bene, dai, salutoni, alle prossime. Ok, dai, ci ascoltiamo, ciao, già, grazie del controllo, grazie di tutto, buon appetito. Se fare carica dopo magari, ciao. Oh già. Chi è? Io sono Doppio Rum. Ho detto, questo apparecchio come radio, come lo senti? Allora, se mi togli l'eco sono capace di darti un riscontro, se no è praticamente un macello, specchio abbasso. Prova. Aspetta. faccio vedere in che scena lo posso fare. Va a vedere. Scappa, guarda. Cosa? Quello di Zeppo, ma voglio sapere come va la radio. Ma non è delle più brillanti, E come la senti? Satura, cupa? Cupa. Capito già. Io, che mi dico che è satura, non posso fare una casa. Cazzo già, con quell'eco adesso, prima non si è uscito niente, adesso di colpo. Il segnale è 8 qualcosa, 9, una cosa del genere, già lo sai che noi qua già ci sentiamo, i te di Sassari, te. Poi come sono messo io qua, te minalasa, ricevo anche le formiche, ti sento benissimo, cioè se devo dire che ti senti, sento benissimo, però se devo fare la considerazione dell'emissione, è cupa, capito? Quest'ultima che hai buttato fuori. Questa qui invece è bella. Però devi ridurre l'eco già, perché io ho l'altoparlante a faccia in giù nell'ingol, in effetti qui dovrei tirare fuori qualcosa, dovrei fare qualcosa perché così mi stanno fastidio. Vedi un po', mi ascolti? No, sto chiuso, eh? Radio Blu. Ehi. La massa, che sei salto al massimo. Per seconda casa, capito? Gianni! Ah, ecco, va. scritto, sì. Allora, quello nostro però non è CGL. Allora devi andare in quello dove sei scritto tu, perché praticamente se tu non vuoi pagare o vuoi pagare poco, devi essere iscritto al sindacato, capito? Se no, se non sei iscritto ti fanno pagare normalmente. No, già sono iscritto, è quello che abbiamo praticamente della società, è quello che abbiamo al sindacato, capito? Non so mai il telefono se non lo fanno, perché no, non c'ho manco il modulo io. Allora, qua, deve andare con l'atto della casa, e ti fanno tutte quanto, deve prendere giustamente l'appuntamento, e ti fanno tutto quanto loro, capito? L'appuntamento comunque? Con quelli del coso, della CGL, capito? Quanto stai dicendo tu? Il Frontanico non c'è quella del sindacato del patronato lì deve andare lì. Ah, ho capito, ma io lì non sono iscritto, non sono CGL, capito? Sono un'altra categoria. Io sono ecologia ambiente, quindi è un altro sindacato nostro. Perché io sono iscritto, scusa, io sono iscritto a quella cosa là. E vado sempre lì, ma non c'entra niente qua. Prendi l'appuntamento, vai al primo piano su dove c'è scritto CGL e ti danno un appuntamento per fare questa cosa qua, hai capito? Beh, domani mattina ci passo, prima devo andare alla linea e poi ci passo, vediamo un po', va bene, d'accordo. Io con chi stavi parlando poco fa? C'è a cosa c'era? Parco Nero di Sorso, non so se c'è, avanti Parco Nero, ci sei? Thank you. peccato che la luce non va più. Buonasera. Buonasera Falcone, come ti mai che si aiuta a fare i pini che non ho mai visto aiuta con i pini, tranne chi si dita un altro chi va e buca. Così, non ma aiuta non li picco mai, una vedo mai l'ha piccata al muro, una aiuta vero. Così è. Avanti, un cappa. La ragotta con le spine. Questa non ho ancora capita, Falcone. Anzi, è la prima cosa che sento, e pioggia. Devo travagliare, Falcone, se no c'è venuto volentieri, eh. Vabbè che tu travagli due sì e sei no. canale 5, quando è partito, ha detto, dice che lo Stato ha finanziato sotto per le banche, hai capito? E i cittadini lì della Coppa della Spagna, ha detto, prima delle banche, ci siamo noi che siamo senza lavoro e stiamo morendo di fame, passate prima a noi e alle banche ci passate dopo. Purtroppo, che si vuole dire? Noi siamo solo succubi di ciò che fanno loro. Appaga. Poi mi chiedevi come era prima, mi volevo prendere 140, ma poi ho detto se succede come prima. che disturbavo, che mi davano problemi qua. Meglio niente qua. Quando è fatta già, domani come ti dice fai più che bene. A tutti i dini. Io quello che tengo è perché c'è quel petrificato, altrimenti io avrei tenuto due barchini vecchi, ma sarei sbattuto altamente alle balle qua, perché alla fin fine ci sono e non li uso neanche, quindi non lo so che vai a fare. Che ti ascolto sempre forte e chiaro. Dai, allora dai un attimino, allora dai. Guardate, quasi fa lo sciampo. Non lo so, diventa bisogno, raga. E quasi meno 5 sono dai. No, sono meno 5 passate. E che ho qua, non cambia le 10. Sì, facciamo un turno, una parte, un turno all'altra. Ciamba ciamba. Mettere una di quelle corte 800 inox trovato una posizione per poterla sistemare, no? E io la lascio così, la lascio. E là dopo metto quella piccolina dentro città. Adesso stasera che sono venuto qui, adesso mi ha portato qua, mi dico, è tutta una gran cosa, lo segnali come ti arrivi e poi ti esci pure al radio. Non ha nulla a che vedere, è una gollacra e guarda, tanto di cappello, quella piccolina dentro città è una bombetta. Stavo usando, magari se ne andava di batteria. A proposito di MC60, Claudio, le devi mettere quando praticamente lo usi in una radio che non c'è l'alimentazione, capito? Allora non è il caso mio, perché quello lì deve funzionare solo lì e tu. Sì, sì, c'è la sede per mettere le... praticamente la batteria quando l'MC60 non è attaccato alle radio che sono alimentate. Ma fatti roce, vai bianco per me un attimino, che devo fare un attimo una cosettina. Per prendere voi ragazzi, già lo faccio chiamata io. Io ma non è entrato nessuno. No, negativo. C'è successo, che morto io. E noi già siamo, ora, di nuovo lo sta facendo. Te vuoi riavvai, ok? C'è qualche faccio contatto nel coso, okay? C'è qualche faccio contatto nella... Sto questo del MC60, quello che non uso mai. Provate dove c'era la cosa lì, con l'attacco lì, ecco là. Alimentazione? Non lo so, ho spostato la levetta sotto e è tornato alla normalità, quindi domani male lo pulisco, ma domani una pulitina e questi microfoni bisogna usarli, altrimenti è un casino. Io sono tutta la serie radio, già lo vedo la gente che entra, esce, però non so cosa dirti già, io ci sono sempre, tutti i giorni. Poi, per il resto lo sai, io non mi preoccupo, io ci sono e degli altri, se vogliono entrare entrano, se no facciano quello che voglio, lo dico. Io ti trovo a Gianpaolo, a Gianpaolo di Rubo, il rifornitore, stiamo mettendo il gas insieme. E mi ha detto, già, ma non vedi che c'è il baracchino? Tu sì. E ancora. Ha detto, cazzo, non mettete così. Perché state parlando? Ha detto sì. Cazzo, non l'ha mai detto tutto da Gianpaolo. Sono vedo io di cui avevo ricoglionito. E ho detto anche da poco la fetta grande. Gli ho detto, ma perché non lo attacchi il baracchino? E io devo mettere l'antenna, devo mettere questo, devo mettere quell'altro. E niente, noi ci siamo sempre. Non siamo tanti a Sassari, però già stiamo parlando. E mi ha detto, sono vero, qui e là, ma lo mettiamo alla sede. E invece cosa metterli tu? Stanno tutti perdendo colpi, stanno superati i 60 anni e tutti i colpi stanno perdendo. Non mi dire che c'è l'apparecchio, c'è la radio dell'ambulanza, lui è convinto ancora che io sia ucciso, no? Non lo sa per me, perché le dimissioni mie non sono state mandate a Roma ancora. Se io voglio rientro, capito? Ma l'ha anche detto il presidente, se voglio rientrare, che non c'è problema, che mi aspetta la braccia aperta, ma non mi va più di entrarci. Fatto sta che mi ha detto, vuol dire che sì, che c'è la donna, mi devo vedere, ha fatto un'altra mitico, dice questo apparato, eccetera, eccetera, e comunque anche io modulavo, mi ha detto, c'ho ancora la nostalgia, mi piacevano quei tempi, quelli, ha detto. Lui si è un po' fatto coinvolgere, si è fatto coinvolgere troppo da questa cosa della protezione civile, ha abbandonato un po' tutto. Però se riprende mi fa piacere, io quando vuole non ho problemi, però posso anche dare una radio, capito? Però devo montare l'antenna, non c'è antenna, è un casino. Ma che casino è? si monta un'antenna, un amanto, ma dove abita Gian Paolo di Lugo? Non me lo ricordo. Dove abita? In quella buona. Non so se si è trasferito alla 167 o se abita sempre in via delle Vigne, non lo so più, Giampaolo Silvestri o Sandro, quella gente lì, non lo so, perché siamo presi di vista, ci siamo visti alla festa grande, che lui era di servizio, però non abbiamo parlato di queste cose, capite già? Credo che abiti sempre lì in via delle Vigne. Pagappa. E vabbè, comunque a lui sicuramente piacerebbe, no, ma in effetti ha fatto bene a occuparsi, perché tanto è in pensione, che cosa fa? Almeno lui si tiene occupato, ha responsabilità, c'ha Lampana che non è da poco, Lampana l'ha costruita lui. A Porto Torres, poi si è formato il gruppo di Sassari, però lui è sempre il dirigente di tutti e due i gruppi, c'è il presidente a Sassari, che il vicepresidente sarebbe Agostino, il presidente è quello che lavora da Coso, lavora come tecnico da Biagio Giordanilli, e lui lì è proprio il cappuccio. Per Lampana, e più c'è il Ciso, guardie d'ufficio, insomma, chi più ne ha più noi? Sì, ma infatti si è impegnato troppo in tutte queste cose, alla fine poi, non lo so sino a che punto possa leggere, capito? Noi già lo conosciamo, abbiamo fatto il corso assieme con la Ispava, quella di Sassari, capito? Ripeto, non lo so, abbiamo parlato di tante cose, ma non abbiamo toccato il fatto della radio, io l'avevo già detto. Lui mi ha detto che qualcosa voleva farla e poi invece non ha fatto niente, quindi non si è stufato del tutto, gli avevo detto anche che c'è la KB23, col panel B2 come in vecchi tempi, mi ha detto la CP che... mi ha raccontato, mi ha fatto, però se non si pone l'antenna e cosa devo andare? Infatti, in sede stanno di giorno, chi c'è di giorno di tutti i camionisti? In giorno non c'è nessuno. Sta bella la sera, adesso che si fa salotto e cosa, non è che. Non è capo un po' di gente involontario, ma tu hanno proprio sono stato messo da sì, Giampaolo Silvestro, Sandro, Gianluca, insomma ce ne sono tanti, non davvero, non lo sapevo, vabbè comunque adesso lo sai, già da una decina d'anni che abbiamo riaperto il punto, prima sentiva solo QRM e niente, adesso gli altri stavano frequentando quasi assiduamente, quasi tutti i giorni. Stiamo portando avanti un po' tutto. Niente. E Giampaolo c'ha molti impegni, non pochi, è molti, tanto è vero che volevano dare un carico di, come si chiama, di capo raggruppamento Sardegna, che praticamente comanda tutti i capigruppi e tutti i gruppi ci sono nella Sardegna, e lui non ne ha voluto sapere perché aveva già quegli impegni. Nulla, l'avevano avuto proposto, ma non accettato. E tu figurati che ero rimasto a Corrias. Io ero rimasto a Corrias, che praticamente era quello che comandava tutto prima di lui. Lui era il secondo dopo Corrias. Poi infatti mi ha detto che Corrias era uscito e che quindi tutti gli non si è mai accorto che tu ci avevi la tenda al baracchino, il baricame. Ha fatto ogni ora per sapere qualche cosa di me. Non lo so. Ma comunque mi ha detto, cavo, veramente si è meravigliato che ce l'avamo, capito? Adesso oramai è già 10 anni, non sono 2 giorni, sono 10 anni, se te lo ricordi quando abbiamo aspettato l'altra era 10 anni fa. Eh sì, e tu ci avevi quel portatile, abbiamo aperto io, tu, Luca e Natalino, tutti qua sul canale 10. E poi hanno iniziato a rientrare un po' di gente, ma eravamo in 4-5 allora, non è che c'era molto traffico. Vabbè, poi iniziate a trovare Franco, Antonio, insomma tutta la gente che sta parlando adesso. Però siamo già da parecchio che abbiamo iniziato nuovamente a riaprire queste radio. Non lo so perché ti ha fatto quella domanda, sinceramente. Boh, io gliel'avevo detto, o si è ricoglionito o lo litiga. Vediamo Gianluca, attento Gianluca. Dove è andato Gianluca? Gianluca ha detto che richiamava lui. Cosa stavo dicendo? Ma infatti quando mi hanno detto mi sembra strano, perché mi pare sempre di lui che si trova, ma che qua che mi hanno detto che siamo in radio, mi pare strano. Infatti, anche a me è sembrato strano. Io ti ripeto, glielo avevo detto, ma ci siamo visti prima che morisse Carlo Titano, molto tempo prima, e mi ha detto che appunto quello che ti ho detto, se trovava un'antenna da piazzare, non vuoi piazzare l'antenna, altrimenti la metteva in sede e faceva, non si faceva sentire ogni tanto, ecco tutto qua, però ha fatto questa domanda strana, non lo auguro. Non si ricordava, probabilmente non si ricordava. Ma caro Titano, io mi ricordo che l'ho sentito quando è ritornato al continente. Ho trovato non in continente, ma su Burdurrado, mi ha detto, ho finito, eccetera, eccetera. Sto trovando un certo 40, mi pare, con un 4,40, adesso non mi ricordo. E ci va tutto a tratti, tutto strappava, ci va a tratti. E te fallo scaldare un po', devo essere condensatori, mi metto il giorno dopo che sicuramente era quello, che erano i condensatori, stavo scendendo bene adesso. Sì, te l'avevo detto anche io quando ero rientrato. L'aveva tenuto molto fermo, infatti io gli avevo detto a sua volta, la prima volta che sono andato fuori, ho toccato se ci sono problemi. Io ce l'ho la mia, uso un po' la tua, un po' la mia, insomma la faccio andare, te la tengo in uso. Ma no, non c'è problema, già l'ho detto a l'impresa, al figlio insomma, che di accendere ogni tanto, anche senza l'antenna, e di farla scaldare a Giacomo. Invece Guido che si andava alla radio non l'ha mai acceso, non ne ha mai acceso, e adesso già l'accendo io, però vedi come rimane accesa. Appagato. Vabbè, certo, vediamo se c'è Gianluca. Oh, Gianluca non è tra più. Gianluca non si sta lavorando, già si fa sentire ogni tanto, ed è nuova, il problema è quello, capito? L'ho fatta comprare io, proprio nuova di pacca, l'ho fatta comprare io, nuova, e basta, era un po' sporchina, una bella pulita, esternamente, la radio nuovissima, è proprio nuova. E niente, voleva un po' tirata, un po', non so, dato quel poco magico, e adesso è funzionante. Bravo, sta facendo. Carta, ci siamo sentiti. E a Tarnacqua si deve fare due notti, mi pare. Due o tre. E poi c'è due giorni di riposo. Infatti in quei due giorni dobbiamo fare qualche taratura a qualche baracchino, visto per non perdere il vizio, e va bene, così, siamo a posto, mi abbiamo terminato tutto. Ma se ti capita qualcuno un Galaxy brutto, che intanto non me ne faccio niente, che telefono, il mio. Siamo dei carabinieri che ti stanno chiamando, ci dice una bella birra. Avanti, compagno. Buonasera Gianni. Stavamo aspettando qualche sentito che è entrato. Ho capito, stavo aspettando che veniva l'autosoppista. Qualche superstite. Ah, ho capito. Gabba gabba. No, se ne mangiano più fiato. Che c'è Claudio? Avanti qua. No, è al telefono. Non si drumito. Pura. Ma deve essere al telefono senz'altro. E Giuseppe che fine ha fatto? Ho sparito la circolazione. Giuseppe si è ritratto per andare a mangiare, a questo poi sta mangiando un buco. Non è ancora rientrato. Cappa, domani per lui San Paganini, sono già arrivati i soldi in banca. Poi paga il fiume bassa, c'è, cioè, spagnola, cosa vita? È una fastidiosa. Ehi, cappa, per il suo. Qui? Se ti dico chi era? Il telefono. Fabrizio, che è a lavoro, ci sta ascoltando, perché c'ha l'8.50 e remote, e praticamente lui ci sta ascoltando dal computer, quindi lo puoi salutare tranquillamente, al caro Fabrizio, perché mi sta scusando il telefono, quando Fabrizio non c'è che è a lavoro. Carissimo Fabrizio! Ciao Fabrizio, buon lavoro, vai, come a capo. Non è importante ancora, non ha inserito il microfonino nell'iPod, però già se lo fa adesso, adesso si fa il contattino e quindi tramite questo remote che c'ha con la radio di casa, lui al lavoro si sta ascoltando tramite il computer. Come è con lo stesso segnale che siamo a casa, va? Grande Fabrizio, grande, grande, grande. Fabrizio, buon Fabrizio. Ma non sei a lavoro, sì sì, sono a lavoro, ma ti ho sentito. Va bene, va bene, continua a lavorare, cane morto. Tutti duri in 20. Molto poco, saluta Fabrizio che lavoro. Ciao Fabrizio, buona Pasqua, salutoni. E intanto non ti può rispondere, però. Ci state facendo compagnia. No, ma esce, non è il turno di notte già. È il turno di pomeriggio, alle 11 esce. Quindi poi se ce la fa già, quando arriva a casa si fa sentire. Gatta, gatta. E me molto pompa, tutto bene? Tutto bene, a voglia. Ti sento un po' trullo. Ti sento un po' trullo. Cosa c'hai? Dimmi, tio Claudio, cosa c'hai? Sono stato un po' stanco, vorrei dire. Sono stamattina alle 6 in piedi. Sono entrato alle 8 a lavorare stasera, quindi figurati. Prima un lavoro e poi l'altro. Un po' trullo, un po' stanco. E se trullo lì e trullo là, insomma. Sempre stanco, sì. Quanto mi sarei voluto stancare veramente al lavoro, invece ho una brutta radice là, perché no, lascia perdere, per carità. E ma intanto, diciamo che c'è la visita, bisogna vedere se si condizioni di entrare. Quello, lo sai che non la fanno più quella pomata? C'è quella corrispondente a quella. Mi hanno detto che la stessa, però quella come marca non la fanno più. E come hanno tolto l'auli, ne hanno fatto tutti gli altri, capito? Sì, adesso c'è minusuline, una cosa del genere, si chiama. Minusuline. Vedi, è buono. C'è buono che quello. No, non ho mai fatto un'altra prima, tu che mi avete comprato i Gianni. Praticamente non la fanno più. Ce n'è un'altra simile a quella, buona come quella, però la marca non è più quella lì. Ha un altro nome strambo. No, Gianni, non c'è più, non la fanno più. Mi ho dato un'altra in corrispondenza di quella, praticamente la stessa però con un altro nome. Ha pagato, prova. È gel, me l'ho messa, adesso vediamo se inizia a calare, che sono a toma, insomma è meglio che mi vedano loro a 19, e così si rendono conto che la caduta non era uno scherzo, capito? Ma Silvio, la sì, là. Però adesso vi assorbe il coso, cioè sul corpo stesso non preoccuparti. E la pettatura assorbe, basta che c'è. Io figurati quando ho avuto il colpo in testa, la sera non c'avevo nulla, ma il domenicatino era tutto viola, dalla faccia fino a giù. Io ci ho messo quasi un mese no, 2 settimane là, a riassorbirsi questa in pratica. Il sangue petto è sceso giù, era tutto quello, poi gonfio come un coso, come un pallone. Positivo. Ah, adesso ho capito perché sei diventato rincoglionito, perché hai preso un colpo di testa, non me l'avevi mai detto. Sì, è vero che ho pigliato un colpo di testa, un bel tubo di attendite. Come quei tubi che facevamo una volta in cemento, bello pieno, figurati, lungo 6 metri. Io lo sapevo, come abita la stessa di vecchio, vero? Quando abitava la stessa di vecchio mi è successo. Infatti c'ho avuto trauma cranico, il merito dice il medico, ma tu figurati che mi usciva il sangue come se avessi perduto un minuto dell'acqua calda. Uguale. Mi sono messo un coso, un... avevo uno straccio, mi sono messo per tamponare un po' per arrivare all'ospedale, non mi sono mica cagato per niente, calmo, sono andato piano piano, tanto per questo cosa sapevo già che ci dovevo rimanere 2 o 3 ore di butta prima di cucirmi, e che gli ho detto, gli ho detto, beh, non mi cucite, no, forse non c'è bisogno, gli ho detto, come no, gli ho detto, se c'è un tacco in testa, gli ho detto, non me l'ha fatto né tacco né nulla, mi hanno cucito e me l'hanno mandato a casa. Dice che la notte non dorma, mi ha detto, sì, e tu questa notte dormo forte lunga, gli ho detto, però se poi ci rimango secco, gli ho detto, sono problemi vostri. Cioè, un colpo in testa non ti hanno fatto neanche l'attacco? Nulla, nessun attacco me l'hanno fatto, non richiesta, ma non me l'hanno fatto, mi ha detto che non ce n'era bisogno. Sono esauriti proprio, Oggi a proposito, la linea mi richiede l'RX che ho fatto io quando sono arrivato, ma sono obbligati a darmela loro? Sì, è su richiesta tua, si prova a riportare. Perché la vuole vedere il linea, c'è scritto nella lettera, documentazione dell'ospedale più RX, quindi adesso domani devo andare e farmela dare, lì dove mi hanno fatto l'ortopedia, dove mi hanno fatto la lastra, capito? Perché la vogliono vedere, poi la devo riportare. Ma te l'hanno fatta a primo piano? E credo di sì, a primo piano. Ho l'autobus, non so cos'è quella dove c'è la fai del latte. Primo piano, è quello, l'ortopedia è al sesto, radiologia in pratica è primo piano. Tu vai lì, all'entrata, dove così, non mi lasci, mi ci ascolti, così e così, mi serve per l'infortunio e dovrebbero darmi, non lo so se te lo danno all'ospedale, mi pare che la devi prendere e poi riportare. No, no, no, che ne ci va, perché mi serve, capito, mi serve, cioè non serve a me, serve a loro, e serve anche la... Sì, la visionano, in tutti i dettagli, molte volte hanno anche parlato di sì, e per questo l'hanno fatto fare tutti questi giorni di... Capito, non molta gente, c'era una ragazza che lavorava, non mi ricordo dove, da Euroni, se roba del genere, stavo chiedendo la serrata che è elettronica. E praticamente si è bloccata, e non trovava come se la bloccata pure si farà da rigore e bloccata da dal campo. E praticamente ha avuto tramontare, così più non vedeva bene un occhio, praticamente rispariva la vista di corpo, a momenti, là, proprio non vedeva più nulla. E lei ha detto, l'ultima volta che è andata, però gli hanno anche suturato un taglio grosso che gli ha fatto, e è andata, gli ha detto, beh, io sono andato dall'oculista, ma l'oculista mi ha detto di non lottare assolutamente, che qua io forse ho bisogno anche di un intervento. Praticamente il consiglio dell'oculista è andato via, ha detto che lui non voleva sapere che per lui poteva rientrare di qua e là, e si è dovuto mettere un avvocato per questa cosa qua, perché uno la voleva far rientrare e l'altro diceva no, no, lei non rientra perché è una cosa seria, non è una cosa da scherzare. Ha avuto un trauma cranico, una cosa per loro, prima ti fanno rientrare è meglio che pagano di meno, la fine. Vabbè, come ci fanno rientrare giustamente che non ho niente, va bene. L'importante è che loro mi dicano che posso rientrare. Non vorrei che dopo mi succedesse qualcosa o che il dolore aumenti, capito? Tutto lì. Io non è che voglio speculare in nulla, voglio solo rientrare che sto bene. Quindi loro mi visitano, se mi dicono deve rientrare, va bene, io rientro, lasci da tutti. Non c'è nessun problema da parte mia. Adesso domani mattina ci vado, porto tutta la documentazione e mi faccio dare questa l'altra, speriamo me la diano. Loro tutte le parti dicono le fa male qua, le fa male qua, quanto le fa male, un dolore persistente oppure no, ci sono tutte queste domande. Fanno vedere sul lettino, ti fanno tutte le domande possibili e immaginate. E vabbè, io rispondo alle domande, non c'è problema. Però ti ripeto, l'importante è che loro sappiano che io devo essere... Dove si io mi hanno lavoro, capito? Già, dove si io perché non voglio avere rotture di palle, tutto lì. Avanti, pompo. Prima di rientrare fate controllare bene comunque, sennò i travi di dolore rimangono lì tra, tanto di certo. Non so che tu puoi rientrare, però prima di rientrare sistemate bene, capito? Poi quando io, un domani che prenderai freddo, voi già ci sentivi dolore, te lo sto dicendo io da quel tramo al cranico che ho avuto, quando ci cambia la temperatura dal caldo al freddo, il corpo so già un giorno prima, massimo due, perché mi fa male la testa, capito? E quando mi sceso il tubo io ho visto addirittura tutto bianco, e roba non l'ho mai visto in vita mia. Non ho visto più niente, ho visto tutto bianco e blu, non ho visto altro. Poi meno male si è di nuovo sistemato tutto, sono andato a farmi controllare, dicevo non c'avevo tutto niente, dice che era tutto normale. Capito? Sì, ma io non mi sarei fatto, cioè non mi sarei fidato un colpo in testa, La spalla l'hanno messa a posto, hanno fatto anestesia, il dolore mettiamo quello di nuovo, ma come te lo la faccia pure, voglio vedere se riesci a metterlo in alto, se riesci a girarlo bene, bisogna vedere se ti ha lasciato loro. Quella che poi se tu accusi dopo un casino, tocca riaprire la pratica, eccetera, eccetera. Quindi è meglio che tu faccia le prove prima, se ti fa male, se riesci a rottare il braccio, eccetera, eccetera. Devi vedere se funziona tutto per il meglio. Rottarlo, scusa Rottarlo, se mi sto togliendo la provetta d'imbragatura sono anche a bretelle, perché mi sono mangiato e ho scusato, ma io mi devo lavare, cioè me lo lavare sotto le ascelle, mi devo insomma pulire come cristiani. Tanto se mi hai fatto una fasciatura dove io, almeno per lavare, piano piano, lo aiuto a mia moglie, posso togliermela, lavarmi e poi rimettermela, così me l'hanno fatta. Muoverlo. Se riesco a sollevarlo 10 cm, allargarlo 10 cm, giusto per lavarmi le ascelle, è troppo. Sono passati 11 giorni, Gianni, cosa? Non so prima di farmelo girare il braccio, non ce la faccio a girare il braccio. Né a sollevarlo, né a ruotarlo, niente ce la faccio. Vabbè, allora che cosa fai? Se ti dicono di sollevare una pompa sommersa, cosa fai? Come fai? No, vabbè, quello non è un problema, perché già abbiamo la gruetta, poi io non mi occupo più di queste cose già da tanti anni. Però il problema è che mi capita di fare il giro da solo in reperibilità come il sabato e come la domenica. Se mi capita di fare qualche manovra, cazzo, un braccio la gioia. Io il braccio non riesco a muoverlo, quindi facciano quello che vogliono, se è da rimobilizzare me lo fanno, se è da ingessare me lo ingessano, non me ne fotti uno, l'importante è tornare come prima. E te lo sto dicendo qua, prima di diventare a lavorare, a tutti i dirmi retta, pensa a te, non pensare al lavoro, pensa solamente a te, perché un domani se ti dice c'è di verità non te la riconoscono sotto i tuoi, capito? Invece in questo caso qui, se la cosa va avanti, ti danno l'invalidità, sei tranquillo. È un punteggio più che c'hai per la pensione, capito? Non è che ti sei fatto male per il gioco, ti sei fatto male nel posto di lavoro, capito? Quindi fregatene, resta tu ragione che poi un domani verrai da te repenti. Se ti dico rimanere 2 mesi in cosa, a casa, rimani a casa, al limite fa qualcosa, non lo so, fai un po' di fisioterapia al limite, tutti i giorni così sei tranquillo una volta che guarisci. Io oggi mi ho telefonato un dirigente, l'ingegnere responsabile di zona per la Sardegna. Io pensavo di immaginato da per sapere, sì, mi ha chiesto come è stato, tutto bene, che è là, però mi ha chiamato per lo scopo di chiedermi di pararmi il lavoro. Poi ho visto le carte carburanti del metro della sua zona, ci sono cose che non vanno bene, ma come mai, non è che sono, cioè, manco 15 giorni, 12 giorni, tu vieni a chiedere queste cose, non è già buio, non le ho manco controllate. Non è, glielo ho detto, guarda che non è, no, io non ho visto niente perché mi sono fatto male il 30, quindi l'uno praticamente dovevo prendere in mano tutte le relazioni, controllare tutto, chiudere le carte carburanti dei mezzi, e quindi non ho visto niente. Ma qui la sua zona c'è questo, che non ha mai messo questo, c'è un buono in sospeso, pagato dopo, e se non è vero le cose, no? Non voce di nulla, non è che me lo chiede così al telefono. Ho detto se vuole ci vediamo domani, scendo giù in ufficio e lo vediamo assieme. Ma rivedendolo riesco a capire. Se c'è firma mia so perché l'ho firmato, è buono, quindi ci sarà un perché, ma non mi chieda così perché no, non sto capendo. L'ho detto manco quello che mi sta dicendo. E va bene, allora ci vediamo magari più avanti e lo vediamo assieme, fai uscì. Capito? Cioè, allora tu hai parlato, non è facile, quando uno va a lavoro e sa che deve seguire determinate cose e manca, io tutti i giorni, anche stamattina diceva Giuseppe, è venuto a trovarmi un collega, disperato, qui e là, ma questo qua non sta andando, come mai, ma qui cosa devo fare, cioè, sono, sto già immaginando cosa tutto sta succedendo, capito? Sto già immaginando cosa tutto sta succedendo e cosa tutto troverò dopo, che il problema è ancora più grave. Io ce l'ho so, già ho capito che c'è un... Non un po' di responsabilità su quel lavoro che stai facendo, però il discorso è un altro, claro. Te l'ho già detto, quindi pensa prima per te, a sistemarti tu pure, il lavoro già c'è nel tempo, non preoccuparti. Lo so che ti annoia a casa perché dà fastidio stare così fermo e non sapere cosa fare, non poter uscire, cose così. Lo so già io, perché anch'io mi annoio quando sto a casa. Io preferisco di mettere a lavorare anche 12 ore al giorno. Allora, ci vado anche mezzo addormentato per dire, non me ne fotte nulla, però almeno qui passa l'ora. Però ho capito solo una cosa, prima penso alla salute, poi penso a ingrassare il culo allo Stato. Lo so Antonio, però mi qua c'è Gianni, prova a dileggiare quando ti assenti il casino che trovi, in un sistema completamente diverso dal mio. Gianni, Caramaia? Sì. Gianni si è caramaiato. Fabrizio, Gianni si è caramaiato. Guarda che si mette il microfono stanotte, così parla la ripapa. E la sera Fabrizio già la si sta organizzando, è attiva al MIT e così lo sentiamo anche al lavoro. E non lo vedi cazzacchi, se stacca la corrente siamo fregati, eh. Siamo fottuti, Fabi, sarà bravo, guardati la partita, controlla lì, c'è la quadra, se tutti a posto, ma non attaccare la corrente, se no Fabio Spagliero non può parlare, che sono invalido. La corrente c'è una gioco d'Italia, a me non sappiamo nulla se quando prendono 2-0. E quest'anno l'Italia schicchia forte, non ti preoccupare. Ho visto la partita della Spagna e la squadra c'è. È abbastanza forte, la squadra c'è. Poi la Spagna non è l'ultima rivida, campione europea, campione del mondo, fortissima. Non ti sta giocando la squadra di quello zingaro che è, di Ibrahimovic. No, pensavo stai dicendo un altro zingaro. Io avevo visto, stava giocando e ha fatto un gol addirittura. Il Marino ha segnato. Via. Sì, lo giuro, amica. Fabrizio, l'avvento, la ci stai sentendo? La senti? C'è l'avventurina che sta arrivando alle 4:40. Non la devi sistemare. Perché io quella lì non l'ho mai aperta, quella 140 sì, ma quella rimane dietro, sotto, che è in mezzo al radio. Non devi sistemare, capito? Muoviti a uscire da lavorare. Che è un break c'è. Lo spagnolo, proprio che fa lo spagnolo c'è. Poi diventa di nuovo da Lecce, ha breccato come se fosse qua Sassari, Bucciante Canova. Break, è durante il break. Sono Antonio da Lecce, se non va c'è Riccardo Lanto. C'è una operazione forte quest'anno, meglio così. Vediamo che lui. Maniaco! E lui è entrato, il barato, te l'hai mangiato il porcetto, no? Maniaco! Guarda che domani mattina San Paganini che mi hanno telefonato dalla banca, mi ci sono arrivati i mandati, quindi altra tipo di vogliamo ritirare, se vuoi pompare. Già ci vado quando esco da lavorare, grazie per l'informazione, maniaco. Te lo sto dicendo perché quello che ti sta lavorando con me stamattina ha telefonato al tipo dei mandati, capito? E domani mattina ci sono in banca che hanno già messi oggi. E zappa, va bene. Comunque già ha perso la squadra del polpo, eh? Perso la squadra dello zingaro. Mamma mia, come sto. E indovina chi gliel'ha segnato poi. Allora, l'ex Milanista. era fatto un ex seminarista, hai capito? Non mi sta sulle balle, non ho mai potuto avere, ma come giocava con la Juventus, grande giocatore, per carità, però c'ha un carattere di merda così antipatico che si va via. Lo so, tutto sale, dice, il vero campione del mondo sono io, ho detto, beh, già sta passi. Campione del mondo, campione di rigori, molto pompa. Dimmi, caro, dimmi. Cosa mi racconti? Ma lavorando stavi? Sì, tutto il giorno, da stamattina alle 6 che sono in giro io, sono entrato alle 8 di sera, ho fatto il tempo solo a venire a casa a mangiare veloce e poi ripartire alle 2 e mezzo. Quando sono uscito alle 11 sono andato a casa, mi sono bevuto una birra e poi sono arrivato qua a casa, ho pranzato, una cosa veloce, poi alle 2 e mezzo sono andato a lavorare. Adesso devo andarci anche domani. Se riusciamo a finire il panché. Ah? Ma c'è per un Daniele, sì. Eia. Vabbè. Bisogna lavorare. Pagato te l'hai con la questione della casa? Eia, ancora ce l'ho da pagare qua. Uiuia. Ce l'ho da pagare. Non è che mi sto parlando di buffi, però non ho problema, se l'altro sono contento la verità, anche se piglio 25 euro al giorno, per dire, 20 le piglio dal comune, perché sono 20 euro al giorno, ci danno già lo sai più o meno, di quelle ore che facciamo per quelle 3 ore. Sì, lo sai quanto per quanto siamo assicurati noi lì al giorno, quelle 3 ore che facciamo, sono 7 ore... 7 per 3, 21 euro a giornata, Non sai dove ci sono io, ci sono i cassi integrati, ci sono. Se tu mi vedi, entrano la mattina, calmi come il coso, cazzo. Fanno piano piano. Io mi sento stamattina, ti giuro, alle 9 e mezzo, alle 10, sono entrati dentro, hanno preso un po' di legna, cosa del genere, ci hanno preso la bottiglia di birra fresca, evidentemente c'è il frigo nascosto lì dentro, e stavano bevendo birra nelle ore di lavoro, hai capito? Quindi, figurati tu, e loro pigliano 900 euro per 3 ore, 3 ore solo fanno, dalle 7 e mezza alle 11. E pigliano 960 euro al mese, più di noi due che siamo imbecilli, capito? Noi che ne teniamo da lì, invece noi due, siccome sono ex cassi integrati, li hanno messi lì a lavorare per 900 euro al mese il comune. Non sai che è fatto così, ma chi ce l'ha, a chi troppa tenuta a pigliare in culo, non è preso. Ma non ci sono controlli, vedi, non ci sono controlli, loro se la godono per quello, perché se avrei visto una cosa, se io fossi stato responsabile comunale, sarei andato lì nel posto di lavoro e ti avrei trovato bevendo birra alle 9 e mezzo del mattino alle 10, e l'avrei buttato fuori perché non esiste bene durante il posto di lavoro, ma stai scherzando? Succede qualcosa che solo che quello di ubriaco ammazza qualcuno, lì ci sono un sacco di persone che passano lì, corrono a piedi addirittura, e loro hanno un manitù in mano, quella specie di cosa grosso, tipo d'uspa, come la vuoi chiamare, e più c'è anche un altro mezzo, c'è, sono in due solo, che sono di lì, e tutti e due usano quei mezzi grossi, e bevono tutti e due birra la mattina. Io non tocco, io tocco acqua, non tocco birra, la birra me la bevo quando ho finito di lavorare, non prima. Vabbè. Riprendi tra. Positivo. Antonè, io te l'ho detto quello che penso, stai attento perché quella gente lì ci vuole. Tu quando c'è il 7 esci un attimino e vai e fai quello che devi fare, capito? Senza farti via a girarti le balle, non ti fare vedere lì, perché lì loro scusa un primo, che io ho acqua e bevo l'acqua alla mattina. Io quando esco fuori dal posto di lavoro, no, faccio quello che voglio, non ne frotte proprio niente, ma dentro al posto di lavoro io non le bevo bene, ma così crepano quelli. Ma neanche se me ne invitano, mi dicono per dire, vieni e bevi tu bicchiere di vita, no? Mi dico, mi dispiace, ma non le bevo io. Infatti quando esco alle 11, tutte le mattine, quando vado a lavorare, che sono dell'ippodromo, vado a casa, mi siedo, mi leggo il giornale con calma, mi bevo la birra, la bottiglia della birra piano, perché è ghiacciata. Poi mi prendo il tram, prendo la 7 da via Napoli, ho la 4 e la salgo a casa e mangio. Dopodiché se ho da fare un altro lavoro, poi me lo faccio, però non ne tocco alcol durante il lavoro, capito? Specialmente così, il periodo che fa caldo così, che ti crepa, ti fa sudare di più la birra e poi non è che ti renda molto abile al lavoro, capito? Quando bevi più di una, naturalmente una va bene, non ti fa male, ma quando cominci a bere due, come fanno due o tre, li ho visti io, due o tre birre si bevono per uno. Prima vanno al ciclo, poi mi diciamo la birra la scorta loro, perché se la prendono prima, capito? Già non le faccio io, non me ne fate nulla, io quando entro per questo lavoro osservo e mi faccio gli affari miei, non vado al di là a nessuno perché non me ne fate tutto niente. Se succede qualche cosa non vi risolvo io, quindi mi innanto. Se mi dico male c'era il signore che ti suonava, io non so niente. E stavo facendo altre cose e non ho visto niente, dico. L'internata si sente, l'internata. fatto la lettera della RAI stamattina. Io ti ho detto, siamo a Tortona, devi pagare il canone. Sì, mi ha scritto di pagare il canone. Adesso mi mando, ma c'è la fotocopia, l'avevo mandato con la, quando lavoravo con la RAI, che io abito con mia madre e c'è il numero di ruolo scritto. Gli faccio il telegramma e gliela mando domani mattina, anzi non telegramma, gliela mando direttamente con l'altro ricevutore intorno. Le dico che sono disoccupato di attaccarsi a Puppa, se vogliono che gli pago il canone, di rivolgersi a signor Monti, dico. Dove signor Monti? E di dove morto signor Monti? Signor Giovanni da Monti è morto, è caduto la scala. Già ci ha cortato già. Salva la Spagna 45 miliardi di euro di tasca nostra, e più dobbiamo aggiungere altri fra poco, perché quanto sembra siamo tornati incasinati peggio di prima adesso. Io gli andiamo bene, già facciamo la fine della Grecia, lo vedrai. Non dura molto questo euro, te lo dico io, Non dura molto. Torniamo alla lira, te lo dico io, subito. I banchieri si attroncano in culo. Che tu c'è vedi una finestra che tu vedi, va bene. collega tua, oh. Stamattina non so come l'avrò fatta, Può venire, Claudia, venerdì non mi sono malumore, la sta già rovinata. Ma tu fa la forte. Poverina, tanto mi metti in mezzo, andata a montirmi, ci vado all'albergo di Sciapizzata. Ciao, come dice, lasciate la tua. Sì, te l'ho annetto. Claudia, gli auguri vuole a Franco. Ciccio, pazienza. Certo, certo. È una buonissima ragazza, poi siamo fatti bene insieme, Poi giustamente quando si inizia a non capire, allora è meglio mollare subito perché poi viene male. Poi viene male, purtroppo viene male. Vabbè. Pazienza, pazienza, mantieni tu, pazienza. Gli amori quando vengono, io vuoi va. Ok, molto poco. Dimmi, dimmi. Antonio, qual è la mia curiosità? Ah, che dov'è? Ma sempre quello che si vuole un culo. Anche con il culo davanti qualche volta quando me ne infilano, perché si solleva da solo davanti. Chi è che mi metto la poppa in culo adesso? Si solleva il cricco. Sta fa la ruta, sì, maledetto, grazie. Angina Pitu disse che all'ospedale mi hanno detto che c'è sparita, è passato a padre Giacomo Federico e è sparita, grazie, pure di Mario Arraio ai medici dell'ospedale civile nuovo, grazie. E secondo me che da con chi ruio proprio, quasi mai, grazie. E lo saprei. Uia. Sta tranquillo se ti capita qualche infermiera che comincia a toccarti e a voglia che si solleva il cricco. Bacia che non so che avevo visto che da pure andare. Ah, quando ti credo di comprare tu se può fare, ti parlo dell'80 qualcosa. C'erano queste, come si chiama? Tirocinanti, no? E ce l'ho mettere la crema a noi. Siccome erano ben bastanti quei infermieri che c'erano tanti anni, gli faccio guarda, devi mettere la crema, dice loro, si spogliano e gli mettete la crema. E loro erano tutti nudi, figurati tu. C'era una cazzo che cominciava a sollevarti il pisello e poi ti passava la crema, perché ce l'aveva lì naturalmente, mi metteva la crema sopra, ma se era più di uno faceva così, con i denti, e se sollevava i cricchini, e diventavo rosse come il pomodoro. Se sollevava il cricchino, ero lì a tipo aino. Poi c'era un altro che era, non so se era Finocchio, cosa cazzo era, prendeva la crema e la metteva con le dita, cazzo, nel coso. Poi c'era un altro invece che sembrava intorno al campo, cazzo, quando metteva il tanuro debole, no? Per far tostinarti la carne per poter poi sparire le macchie. Sembrava che ti metteva cemento, stavi 2-3 giorni con la crema base per infrascarti. Sono io che vabbè quello veniva nei tempi di quando eravamo militari, ma adesso però le visite non le fanno più le infermiere, le donne, insomma, le dottoresse. Ci sono gli uomini in Maragioli, ci sono gli uomini. Sarebbe piaciuto a tanti avere una dottoressa a Roma. Oh, io ce l'avrei, me l'ho cambiata, no? Non ti trovi, cioè non hai quel rapporto che non puoi avere con tuo medico, capito? No, non ci sono problemi. La Roma si è sempre un po' imbarazzata. Quindi oggi è andata, cioè a chicco e va bene così. José, e tu l'avete voluta dottoressa quella che è passata stamattina? Magari. Adesso mica sono solo, lo sai quanta compagnia mi avrebbe fatto bene. Mi avrebbe fatto di una di quelle compagnie, non ti dico, una tutta la notte. Oi, vamos, oh, andiamo. pensare a queste cose. Dobbiamo ai robot di tutto sul lato, poi lo sta visionando, vero Antonio? Magari poi può anche cadere a letto qualche volta e si fa molto male. Il sorveglio non mi piace mai dal letto. Io lo lascio, quindi si arromba subito. Ah, c'è tanti nuovi su cui c'è amica mia su Facebook, la sto corrompendo quattro. Ma tu ti tocca la carretta a mano. Vuoi cosa la retta in cuffio, cazzo? Mi la fanno a fine di cosa, Salvemi? Di quello che modulava su internet, che erano in due. 2CB erano fissati andare su internet, ha conosciuto questi due tipi di ruolo, lui una, lui l'altra, l'ha scoperto che lui era sposato, si è fatta fare ciucucù a casa sua, si è fatta ascoltare dentro, come è andata fuori da casa sua, l'ha salutato, ciao, ci vediamo domani, è andata in carabinieri, ha detto che l'aveva violentata e se ne ha fatto 6 anni. Non ha tolto nessuno, manco l'avvocato suo da dentro, non ti preoccupare. Era minorenne questo? 17 anni ci aveva, lei gli aveva detto che aveva 21, invece aveva 17. Hai capito? Se l'ha inchiappettato come un tetra di chicchia, se l'ha inchiappettato. Già adesso l'hai detto, però c'era anche la foto in giornale che se ne ha fatto un bel po' di anni dentro. Che è passato, Già ce n'è di queste signorine belle, che si crede chissà cosa da voi, perché bisogna stare attenti, adesso bisogna chiedere documenti anche quando vai a trombare, capito Antonio? Fai avere i documenti, se no niente, perché è un casino, ormai ci sono ragazzine di 17 anni che sembra che ne abbiano 22, 23, ma giù mica una, lei dal medico. Ero con mia moglie io e sono che la signora, perché per me è sempre una signora e non è mia amica mia, ci conoscono parlando, sono bene le famiglie di YouTube, minimo tra me diceva aveva 22-23 anni, forse c'era mia figlia, e invece parlando tra le grandi è diventata tua figlia, quanti anni ha adesso? 16 anni, cazzo 16 anni. Ma aveva una bella redditi, un culo, alta, che sembrava una ragazza di 25 anni. E sono sviluppate parecchio adesso, molto molto molto, figurati. E ti trae l'inganno se vuole, ma continua a bizze. Hai capito Giuseppe, già stai attentimi, tu che sei mezzo maniaco. Maniaco è Antonello, non io, cazzo, è un abbigliato qua. Pirofio, o che cazzo si chiama, cazzo, acchiappa filosofo, vero proprio. No. pedofilo si dice Giuseppe. Se la brucia pezza, non gareggiai tu, no. Ma so che Antonello è mezzo maniaco, però, sai. Più va che lo so che vado a doppiccarmi, quindi stai attento. Mariaco, no? Ma quel periodo che abitavo a Centro Storico già mi sono divertito, io c'avevo un bel vicinato che non te ne dico nulla. Non me l'hai raccontato, te ricordi che me l'hai raccontato mio Franco. Cioè, ti ho detto, ma come ti vai anche su un dopo, che per carità. Noi saliva poco di gente, di butti di mani negre, negrette, e tutti che facevano, Giuseppe, Antonio deve toccare un culo, come stai? Sì, mi ha messo qualcosa di Antonello, cazzo poco di, non so guardare così, cazzo poco il l'occhio, no? Cazzo pare così, Marco, però sotto sotto c'è Quindus, che alza bandiera, qua era Antonello. Sì, per scherzo il giorno del mio compleanno mi volevano prendere per il culo, sono andati presi per il culo perché li ho accompagnati io da loro, a mezzanotte in punto era. Poi ho reati da, mi hanno detto, Antonino, così, Antonio, con là, no, li ho accompagnati apposta. Perché io quando busso a mezzanotte e mezza, mi apro la porta, mi che mi conoscono, non è che mi faccio piegare la colpa a nessuno. Poi a certo solito gioco in casa io. Se vado qualcuno, bevo anche gratis, per dire, perché mi conoscevano, ero quasi due anni e mezzo, figurati. Praticamente io lì non ho capito dove abitavi tu al corso. Tu eri nello stesso pianerottolo di dove abitavano quelle negre? E ho avuto brasiliani, ho avuto negre, figurati, di tutto ho avuto in quel pianerottolo, anche sopra. L'unica che diciamo che ha finito di lavorare era una ragazza che aveva 19 anni, che aveva la fila dei ragazzini, 17-18, tutti i giorni arrivavano dalle 7 del mattino fino alle 9 e mezzo di sera a farsi questa ragazza qua. Poi ha conosciuto un tipo e se tu vai a vederla, guarda, intanto la conoscerà di vista, perché c'ha il chiosco di fiori in via Giovanni Pasco di questa ragazza. Ho capito chi è. Gesù Maria Gaga. L'uomo da notte. Perché cioè, altrimenti non si spiegava diversamente. Il fatto che in quella stessa palazzina ci fossero tutte queste. Queste ragazze, Dio con pesce, quindi era a Ciro che ci do. E io lo credo. L'unica che si divertiva la cosa, era piccola tra ricco che frequentava la baracchina, se dice qualche cosa ti rispondeva, finalmente, Pierino l'ha fatto schiattare, il GB, e io stesso a casa perché era tranquilla come ragazza. Anzi la ragazza bambina era pettinata, adesso è 18 anni giusti giustizia adesso. L'ho vista l'altro giorno perché è venuta a trovarmi a casa, che abita in pratica in Umbria adesso. Manca un bel tempo da Sassari. La cinesina che parla male. E a quella lì è diventata grande adesso, se la vedi. Molto alta e essere tranquilla, ben piazzata. Poi la gente Giuseppe, prendono la pericolo. Ho detto, dimmi una cosa, ma se ti dico prendi, tu dove prendi? E da mai detto, tu prendila in culo. Ma qua non ti ho detto in culo, no? No, l'avevi preso tu in culo. Cazzo, l'ho detto, bobo. Tutta la mazza che tiene in variante lo vedi via. E tu non la passare. Cosa che hai detto? Prendi il culo. Che quella... quella di coso di... come amica di Falchetto. La diceva... Italia. E voi italiani tutti in culo. Ah, beh, lì c'è una sabbia, è sempre così sta la voce. Antonio... culo, se lo sta. Sempre così, non so dire altro. Ma questa ti parlava al baracchino, capito? Parlava, mi ricordo, ha ragionato meglio. Non faceva parlare al baracchino. Ah, Nico, se dicevi... Se mi aggiungi che stavo scherzando, se... mi mandava in una mano. Mi ha detto una mazza che ti ne varia. Ah, aveva una voce da bambina, allora quanti anni aveva quando parlava da lì? 12 ne avevo, mi sembra 12 o 13, non di più. Era una bambina, era, infatti mangiavo la lingua, non gli aveva perso per niente, manco morto. Adesso sta a cosa, a Cagliari, sta lavorando. Ha fatto l'alberghiero e c'ha l'esame adesso, il prossimo anno. È diventata brava, studiami, e in più lavora, che lo sai che lei... lavora nella tenda del padre 12 ore al giorno, anzi più di 12 ore, perché io una volta dovevo telefonare a mezzanotte, figurati, si sentiva la macchina a cucire andando. Studiava e lavorava a casa, quello sì che è da ammirare, capito? Ce lo fai tu, come fai tu a lavorare e studiare a quell'età lì? Ma non ci pensi nemmeno. Ma manco per le palle, non importa. Non fa una cosa o fa l'altra, altrimenti non fa niente dell'altro. Quindi è così. Vabbè. E quindi Giuseppe, va bene. Perfetto. Va bene, tempo più, no, tempo più proprio. Non vedo la domenica di andare in banca a incassare. Ma non lavori, Antonio? No, ogni mattina non devo fare cosa. Devo andare in tre uffici diversi ogni mattina. E no, domani sera, quando ho finito, questi uffici qui, mi allora telefono e viene a prendermi a casa e finisco di fare il lavoro che stavo facendo oggi, per fare il parquet. Quel finto parquet che vende cosa, becco, ma è stato 500 euro di parquet che ho comprato. 25 cartoni. Campagna sta facendo, campagna sua? No, in un ufficio, se proprio mi tenta lì di appartamento sta facendo tutto così. Ah, scappa, vabbè, è importante lavorare, e poi alla fine che ci siano le cartucce. Quindi pronti che paghi poi, almeno c'è qualcosa in più. Oggi sono andato a un cliente che si è comprato un videocitofono, 50 euro più, oh, aspetta, no, era 80 euro, era il videocitofono con la telecamera e non mi ricordo cosa cavolo era. Andiamo lì, cazzo, e non funzionava per niente. Abbiamo telefonato, gli hanno detto, dice, faccia una cosa, dice, lo potevi, che a posto di quello gli diamo uno modello vecchio. Tornato nuovo, no? No, lui l'ha piazzato dopo un mesetto, se si è accorto che era successo quell'affare, che era riflettoso, penso non l'aveva neanche piazzato. Quello è tranquillo, è andato, quando ho visto questo affare, ha comprato il videocitofono, quello con due graffi, che c'ha il monitor digitale, capito, con la telecamera all'esterno. Come era attaccato non funzionava la porta e non c'è verso di farlo funzionare. Sbagliati. No, difetto di fabbrica, capito? L'hai fabbricato male, l'hai fabbricato. E cosa? Lì come rivende quelli, capito? Li ha messi in lotta e ha stato per farseli fuori, perché sapeva che erano tutti difettosi. Ah, cappa. Oh, io. Claudio, ci sei? Io arrivo, aspetta. Ehi, ce la riprenda tutta quanta, lunga e corta, aiuto. Davvero? Aspetta che mi piglio la lattina della birra che me la beffo. Immagino la sede. Lascia stare la birra che ti poi ti fa male, Antonio, lascia che poi il baracchino bisogna, le parole bisogna dire tranquille, che beve la birra, chi beve birra campa 100 anni. Eia, infatti chi tocca il coglione muore. Oi, oi, oi. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta, e lo sapete. Avanti, Claudio. Eccomi. Eia, è così, vabbè. Oia, le 11:30 sono, dai. Signori, mi ha detto stop. Io vi saluto, vi auguro un buon 144. Una buona giornata per domani e chiudo battenti, chiudo la radio perché se no domani mattina le 6:30 vengono troppo facilmente. Via, ciao Giuseppe, ci sentiamo, buonanotte, alle prossime. Buon lavoro ogni mattina. Aspetto le vostre piccole due chiacchiere, poi chiudo, dai, rimango in ascolto, dai, tanto chiudo la luce, è probabile che chiudiamo prima. Chiudo la luce, ma che cosa stai facendo, qualcosa di male stai facendo, non so che ti vengono da fuori. No, lui spegne, lui chiude la luce e spegne l'acqua, capito? Cazzo, boh, qua è un problema. portato l'osello, vai, ti metti lì e ti metti dentro, stai tranquillo che già è calda l'acqua. Buonanotte per domani, dai, ciao ciao, buonanotte. Ciao Giuseppe, buonanotte, ciao.